Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il poeta Omero aveva scomodato gli dei dell'Olimpo, dato vita ad una guerra dal sapore epico, eserciti gloriosi, tifoserie stendardi che sventolano, la fama da tramandare ai posteri. Due guerrieri con i tacchetti ai piedi, Cardi armato come Paride, Maxilopez con la corona di Menelao, una mela che si trasforma in un pallone da calcio e Vandanara, ovvero la bella Elena ma con l'hashtag, per un duello che si gioca sul campo di battaglia del Ferraris di Genova. Si dice che chi sia fortunato al gioco sia sfortunato in amore. La rete che si gonfia non lascia spazio ad armistizi e tempi supplementari. Giorni rinchiusi in un hotel di Milano in attesa di un contratto, la fugace esperienza rossonera, l'inconsistente stagione doriana. E sì che di secondo nome fa pure Gastone. La sorte non sorride al biondo Maxi Lopez. Lo scudo che luccica trionfante in questa domenica appartiene solo al rivale, giovane ed esuberante Roy Nerazzurro. Beh, bravissima Sara Magnani, eh? Convocata per un giorno. Voi pensavate stessimo scherzando? No, non è così, eh? Vale davvero. www.radio24.it, adesso ve lo faccio dire da lei come si partecipa e si viene qui a ritirare la maglietta di tutti i convocati, griff storico ormai, leggendaria, e poi soprattutto, ma con mio grande piacere, convocata per un giorno e opinionista per noi per un giorno. Nessuno è perfetto, neanche Sara, che è juventina e astemia. Ciao Sara, come stai? Ciao a tutti, grazie ciao. Mille, ciao Carlo. Allora, come spiega agli ascoltatori come si fa, perché io mi incasino tutte le volte. Allora, bisogna andare sul sito di Radio 24, sì. E convocata per un giorno, si carica il file in MP3, e poi dopo si spera, insomma. Sì. Va bene, allora questa la registro, così tutte le volte la mando, ed è Sara che vi spiega come si fa a venire qui a parlare, ad essere opinionisti e a ritirare la maglietta, che a me non la danno, sai? No. No, non me l'ho chiesta, ma mi hanno detto no, sono per gli ascoltatori, sono contate. Beh, non ci rompere offerte, le scatole, si accettano offerte. Sì. Ah, bravo. Allora, Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia. Siamo ovviamente qui in diretta anche oggi, 25 aprile, perché si lavora duro. Provate voi, invece, che siete a casa, a smentire quelli che mi dicono: ma va, 25 aprile non telefona nessuno, figurati, sono tutti a fare la scampagnata. 800 24 0024. Tra l'altro, anche oggi al migliore in campo la mitologica maglietta di tutti i convocati. Allora, Juventus ovviamente deludente secondo me ieri sera, all'ordine del giorno. Poi mi intrigano un sacco questi giorni inglesi. Ha parlato Giggs, prima conferenza stampa, l'allenatore dello United, ad interim pare, ma poi vediamo, insieme alla congrega degli ex giocatori. Poi c'è Mourinho che vuol far giocare la primavera nella sfida per il titolo contro il Liverpool, a Liverpool, e con il placet del suo presidente Roman Abramovic, in aperta sfida contro i parrucconi della Football Association, perché dice: ah, non ci fanno riposare, abbiamo il ritorno con Atletico Madrid, quella per noi è la partita della vita, ci costringono a giocare la domenica. Vediamo domenica che succede, se davvero giocheranno ragazzini e i ragazzini e quelli che per squalifica non potranno essere presenti alla partita di ritorno. Allora Sara, sicuramente deve essere qui il 25 aprile, eh? Noi altri programmi? No, anzi, il programma della vita. non benissimo la Juve ieri sera. No, per niente. Deludente, brutta. Cioè, non sono neanche contenta delle dichiarazioni di Conte, che dice che hanno giocato. Che hanno giocato bene. Non mi è piaciuta le dichiarazioni pre-partita, che dicevano che gli allenatori, cioè, non contano i risultati, ma l'allenatore si vede dallo spirito. Sì, cioè, non contano i risultati. Infatti, non contano, anzi. Contano, e come, ed è per questo che, insomma, il tema che più mi ha intrigato nel corso della settimana è stato questo del confronto tra mettiamoli, profeti del catenaccio, e catenaccio non è una brutta parola secondo me, non c'è niente di peccaminoso in questa parola, e il tiki-tacchismo. Io sto con i primi, tra l'altro oggi su Repubblica, ma poi ne parliamo con calma, c'è un interessante sintesi di, è un'ammirabile sintesi del professor Andrea Sorrentino. Ciao Tiki Taka, noi andiamo in porta, Chelsea, Real e Atletico, il ritorno del calcio essenziale, perché a me questo piace. Però Tevez è tornato al gol, cara Sara. Grandissimo. Carlitos Tevez. Molto Saveglia, non puoi essere tuo notario, ma che t'ha fatto ora che ti olvidaste di Carlito, tanto tempo, tanto sogno, presidente. No, no, Rudy, little fake, check. L'imbucata per Asamoah stavolta, Maxi Pereira in ritardo, lo scarico, Tevez riesce a passare, a rete, finalmente lui, dopo 5 anni la PASH in ambito internazionale, torna a colpire con un gol pesantissimo, 1-1. No puede ser tan notario. Bella questa canzone, eh? Bellissima. Perché? Perché in Argentina ovviamente vogliono Carlitos Tevez ai mondiali, lo voglio anch'io da appassionato dell'albiceleste, e io spero che quest'estate non faccia vacanza, ma sarà impossibile perché ormai le scelte sono state fatte e non credo che Carlitos andrà ai mondiali. Gli juventini sono contenti perché dicono beh, meno male, si riposa. Però sentiamo anche cosa ha detto. A te, Sara, non è piaciuto Antonio Conte nelle sue dichiarazioni post partita? Dichiarazioni come questa. Penso che sia un risultato ingiusto. La partita non era iniziata nel migliore dei modi, perché su un calcio d'angolo, su una palla da fermo, dopo un minuto ci hanno fatto gol. Sappiamo benissimo far prendere entusiasmo al Benfica cosa potesse significare, ma anche nel primo tempo la squadra era ben messa in campo, abbiamo lasciato praticamente zero al Benfica, nel secondo tempo li abbiamo messi sotto, c'è il rammarico del risultato anche perché sembrava che da un momento all'altro dovessero capitolare e invece poi hanno trovato questo colpo di coda, questo gol, però sono molto soddisfatto della prestazione da parte della squadra. Tanto sogno, presiento che si te. Posso dirti la verità, non sono piaciute neanche a me le dichiarazioni di Conte, perché non è stata una bella Juventus, perché ha preso due gol su due evidenti errori difensivi e cominciano ad essere tanti, perché ne poteva prendere anche altri. È vero, buon secondo tempo, però Juventus nel complesso deludente, se parametrata a quella che vediamo nel nostro campionato. Si conferma il fatto che Barzagli è un giocatore fondamentale per quella difesa, perché eleva il rendimento di Bonucci, di Chiellini e di tutti quanti gli altri, è uno che non sbaglia mai. Ieri sera abbiamo visto la partita che ha giocato Bonucci. Non è un buon risultato perché la Juventus in casa, cara Sara, lo sai benissimo, in Coppa prende quasi sempre gol. L'unica volta che è rimasta imbattuta in casa, in Coppa compresa Champions League, è stata con il Trabzonspor, perché poi ha preso gol anche dal Copenaghen, due dal Galatasaray, due dal Real Madrid, uno dalla Fiorentina, uno dal Lione, e quindi c'è da stare molto attenti, perché questa Coppa, per quanto conta per la Juventus questa Coppa? Tantissimo. Vero? Fondamentale. È fondamentale perché la Juventus ha bisogno di una, e Conte ha bisogno di una missione europea. Tra l'altro, altro argomento di cui parleremo, in Inghilterra si scrive che Conte potrebbe essere in lizza per la panchina del Manchester United, ha bisogno di una consacrazione europea e questo Conte lo sa bene, o dovrebbe saperlo. 800 24 00 24, al migliore in campo di oggi una maglietta di tutti i convocati come quella che poi Sara ritirerà. Lizza da Trieste, buongiorno. Buongiorno Vinta. Buongiorno. Grazie di avermi convocata. Ma grazie a lei. Mi dispiace per Sara, ma sono contenta che la Juventus ha perso. Ma ci sta tutta, eh. Io sì, sono favorevole al tifo contro. No, l'ho sempre detto. Va bene, io proprio sono contentissima che la Juventus ha perso. E mi dispiace per l'Atletico Madrid, perché io sono interista. Però tenevo anche per l'Atletico Madrid. Speriamo in bene, signor Denta. Ma come fa a tenere per l'Atletico Madrid che c'è Mourinho? Come fa? Lasciamo stare Mourinho, ma c'è Simeone. Simeone era interista. Comunque vada, cadete in piedi. O Simeone o Mourinho saranno in finale di Champions speriamo, League. Speriamo, speriamo, signor Genta. Com'è lì a Trieste? Com'è il suo 25 aprile? Trieste è una delle mie città preferite all over the world. Sì, oggi c'è il 25 aprile, la liberazione. Ci sono un po' di polemiche per via del coro della Bella Ciao. Sì. E comunque adesso io sono a casa a quest'ora perché io ho 70 anni. Sì. E quindi a quest'ora in genere vi ascolto sempre e mi riposo sul letto. Spero che non userà noi per addormentarsi. No, mi addormento. Vi ascolto di notte, non perdo mai niente di Radio 24. Grandissima trasmissione. Mi sa che le mandiamo la maglietta, guardi, lo dico subito. Poi vediamo se qualcuno batte Lizza da Trieste. Brava. Grandissima. 800 24 00 24, numero verde. Tra l'altro, altra spigolatura, altra sfaccettatura dei giorni che aspettano la Juventus. Questa sera, come sappiamo tutti, c'è Roma-Milan. Se la Roma non vince, quindi pareggia o perde, cosa possibile secondo me con questo Milan, la Juventus potrebbe festeggiare lo scudetto di lunedì sera a Reggio Emilia. Ti piace questa idea? Oppure no? Adesso Sassuolo che. No, perché mi sta simpatico il Sassuolo, per cui spero che pareggi, così almeno tiene un po' vive le speranze di salvezza. Sì, quindi tu speri di festeggiarlo al Juventus Stadium in un'altra occasione, sì. Non di lunedì sera. Esatto. Questo ci sta. Comunque, giustamente scrive Franco Piantanida, dall'altra parte sarà una settimana dei gufi da qui a giovedì e noi li convochiamo tutti i gufi qui 800 24 00 24, perché nel calcio tutto questo ci sta, nel calcio tutto questo ha diritto di cittadinanza. Ieri sera al 90esimo quasi di quella partita Mezza Italia ha esultato e secondo me questo è sacrosanto. Cioè, tu quando gioca l'Inter o il Milan in Champions League, in Coppa, per chi tifi? Per l'avversario di tutti? Assolutamente. Giusto. Una delle gioie più grandi è stata Liverpool-Milan. La ricordo bene quella partita, ma ci sta, è giusto così, cioè entro certi limiti, perché dobbiamo prenderci sul serio? No, tifiamo le squadre italiane per il ranking UEFA, ma chi se ne frega, ma chi ci crede? Calcio e passione non è ranking UEFA. Nazif, Reggio Emilia, buongiorno. Adesso arriva Pardo, sta arrivando Pardo. Dopo il traffico, un paio di minuti è qui. Dica. Salve, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Grazie a lei. Io sono un juventino, ma non lo vedo così deludente ieri sera il risultato. Perché il Benfica non è una brutta squadra. No, ma la Juventus è quasi tricampione d'Italia, ha quasi fatto ha quasi calato il tris. Non è una brutta squadra perché non sarebbe arrivata lì. La Juve comunque questa Coppa lo vince, ecco, saranno contenti tutti i juventini. Sara sta sventolando un paio di corna. Ecco, la Juve deve per vincere il Champions League comunque deve fare almeno 2-3 almeno un attaccante di peso. Sì. Ecco, tra l'altro, perché il tema perché ha fatto giocare Vucinic? Perché ha fatto giocare Vucinic? Non lo so. Perché ha fatto giocare Vucinic? Non lo so. Ma attaccanti, tra l'altro, il tema della settimana per inviarci il file MP3, come ha fatto Sara, è proprio questo: cosa manca alla Juventus per arrivare in Champions League? Abbiamo un vincitore anche in questo caso, poi lo facciamo pure sentire. Cosa manca alla Juventus per poter essere competitiva in Champions League? Boo. La pill, quel non so che. No, allora, la mia idea è che comunque prima di arrivare alla laurea serve il diploma. Questa ed è un'idea che condivido con uno che sarà nostro ospite tra poco, cioè Maurizio Crosetti, grande amico e penna illustrissima di Repubblica. Allora, prima di arrivare alla laurea bisogna prendere il diploma al liceo, no? Questa coppa è fondamentale per la Juventus e per Conte, perché sarebbe in questo nuovo ciclo il primo passo, sarebbe il diploma. Traffico. Sappiamo benissimo come funziona l'Italia, o sei juventino o sei anti-juventino, quindi secondo me non gliene frega un cavolo di niente a nessuno del ranking, e sperano tutti che la Juventus vada fuori, ecco. Tutti convocati. Gira il pallone, Perez, Cavaleiro, la finta, oh, e c'è il gol! Ha colpito il bomber Lima! Ha colpito il bomber Lima! Benfica torna in vantaggio, bellissima azione! E il bomber Lima non si lascia pregare quando c'è il pallone in area di rigore, non sbaglia! È il bomber Lima! Pierluigi Pardo, ciao! Come va? Benissimo, sono con Sara Magnani, che è venuta a fare l'opinionista per un giorno e a ritirare la maglietta. Grandissima. Ti voleva conoscere di persona, davvero. Anch'io ti vorrei conoscere di persona. Sara, io penso che sia un complotto. Sia il destino cinico e baro. Non so che spiegazione dare. Un complotto per non farci incontrare. Wow. Di Bergamo. Lui sei. No, c'ho la voce bassa. Ha la voce bassa. Pensa che sfiga. Qui sei di Bergamo bassa, non sei di Bergamo alta. Sei? Di Milano. Ah, Milano. Ho sentito questa città. Milano. Ci vivo davvero. Non ti vedo male. Voglio dire questa cosa ufficialmente da romano. Sì. Romano, insomma, fiero di essere di Roma, insomma, Roma Nord, eccetera, Villa Ada, grande senso de pennica. Però a Milano si può vivere molto bene. Insomma, sono due città molto diverse, ma molto belle. Vabbè, basta con questo buonismo. Ascoltami, sì. Secondo te cosa sta facendo Maurizio Crosetti in questo momento? In questo Crosetti esatto a quest'ora momento. Sta finendo di preparare la bagna cauda. È vero, Maurizio? No, se io metto mano ai fornelli è un disastro, sono stato diffidato dai miei figli, sono appena tornato da Lisbona via Monaco e vabbè, vi risparmio la logistica, e mi hanno detto stai bravo, tranquillo, mettiti lì, guardati Mediaset Premium, ascolta Radio 24 e alla sugo pensiamo noi, ecco. Vabbè, senti, veramente proprio uomo straordinario. Tra l'altro devo dire che c'è grande onestà in questo endorsement per Mediaset Premium, perché Crosetti lo vediamo anche su Sky, lo vediamo ovunque, una specie di figura perché lo vogliono tutti, punto al telegatto. Ma c'è ancora il telegatto? E sono orgoglioso di questo. Il telegattone c'è ancora? Super telegattone, certo. No, non c'è più, credo, a dieci anni. Votiamo per la reintegrazione, per il ripristino del telegatto. La riesumazione. Perché a casa Pardo è tornato il gatto. Stamattina c'era stato questo caso del gatto, perché il gatto in realtà è dei vicini. Ultimi telegatti nel 2008, Sì. Il gatto l'anno prima dell'ultimo gol di Tevez, grandissimo. Nel momento in cui parla del telegatto è tornato il gatto, giuro. Adesso vorrei farvici parlare, ma questo comunica. Il gatto muto. Come si chiama? Si chiama Amordi, nome che non ho scelto io. Ma meno male, se no risqualifica. Ti davo due giornate di squalifica. Senti, Maurizio Crosetti, che cosa dicono i tuoi bimbi della partita della Juve di ieri sera? Beh, sono uno più gobo dell'altro, ho fatto un'inchiesta, un'indagine appena arrivato, mi hanno detto la solita Juve di Coppa, si aspetta che facciano qualcosa gli altri per provare a farlo noi. Questa è l'analisi di mia figlia Eugenia, che in parte condivido, anche se la Juve ha giocato una partita gagliarda, però indubbiamente sembra sempre che ci sia una specie di leggera carta velina, una patina opaca, un po' di polvere sui cristalli. Quando la Juve in Europa, effettivamente un po' di team, persino contro il Lione, voglio dire, si era vista quella patina. Il Benfica è una squadra, una signora squadra, come si dice, come dire, il signor Benfica, però un po' deludente. Cioè la Juventus ieri sera a me ha deluso, ti posso dire. Il conto che era squadra senza quattro giocatori importanti, di cui probabilmente i due migliori. Aveva tre ventenni, insomma, consideriamo tutto. Però certo, forse ci si aspettava qualcosa in più. Sì, anche il Chelsea, al Chelsea mancavano un sacco di giocatori, è stato Mourinho è stato crocifisso per aver fatto 0-0 in trasferta. Perché in questo momento il Benfica ad oggi è la quinta squadra per ranking UEFA dell'anno prossimo e possono migliorare praticamente. Sì. Quindi questo racconta un po', no, della... Poi è chiaro che questo dato è un po' drogato dalla semifinale europea di due anni fa e dalla finale di Europa League e dalla finale europea invece persa contro il Chelsea l'anno scorso. Però insomma, se guardiamo i coefficienti UEFA per la prossima stagione, sicuramente la prima fascia è la quinta squadra europea. Sì, ma come dice Conte, il ranking UEFA non gli frega niente a nessuno. Questi sono numeri, dati e statistiche, però resta quella patina a cui faceva riferimento Maurizio Crosetti, che secondo me è reale. Tanto che, insomma, se uno volendo estremizzare o magari essere troppo polemici, cosa manca alla Juventus per essere competitiva in Champions League? A me verrebbe da dire un allenatore che è capace di vincerla. Fischi per lui, pubblicità per noi. No, l'abbiamo fatto. No, abbiamo fatto. Un allenatore capace di vincerla, dai. È una provocazione agghiacciante, direbbe Conte. Agghiacciante. Vediamo se... Guarda, se adesso telefona Conte, sì, e adesso chiama il signor Conte in diretta, sì, allora io gli dico che ha ragione. Che vuol dire, dai? No, che ha ragione, vediamo se alza questa Europa League, come scrive Maurizio Crosetti perfettamente. Allora, per arrivare alla laurea ci vuole il diploma, e questa coppa è importantissima, sì, perché per la Juventus è il diploma che arriva nell'anno che dovrebbe arrivare, nell'anno in cui sono nati quelli che quest'anno prenderanno la maturità, giusto Maurizio? Sì, è giusto, però non basta Conte, non basta neanche non basterebbe il miglior Conte, il Conte del campionato per vincere o provare a vincere la Champions. Un'altra cosa che abbiamo fatto notare i miei critici opinionisti casalinghi è il fatto che quando il Real Madrid sostituisce Cristiano Ronaldo entra Bale, quando nel Bayern Monaco deve entrare qualcuno entra Schürrle, quando nella Juve entra qualcuno, senza offesa, entrano Isla. Ferma di qua, sì. No, senza offesa, io credo che alla Juve manchino tre o quattro giocatori per vincere la Champions. Certo, è vero, ma la verità è questa, dai. Poi il tema è che lo ripetiamo mille volte quest'anno, sicuramente la Juve quest'anno ha fallito in Champions League, c'è stata anche una serie di fattori esterni che hanno pesato. Sì, che però non devono diventare una scusa. No, non devono diventare una scusa, perché la Juve secondo me la qualificazione l'ha persa nelle prime due partite, esatto, contro Copenaghen e Galatasaray in casa, e complice una partenza negativa, no? La Juve prima dei famosi quattro pugni di Firenze era un po' così, un po' in un limbo, e in quel periodo lì ci sono stati queste due partite e questi due pareggi che alla fine poi sono stati quelli decisivi che ti hanno portato ad avere la partita col Galatasaray decisiva, nella quale poi è successo di tutto. Insomma, eravamo lì con Crosetti, non tornavamo più, ti ricordi? No? Quanti ricordi? Istanbul, no, c'era questa come si chiama lì quella neve che gira? Quell'effetto della neve, cioè la neve non mi ricordo più, sono vecchio. Sì, comunque c'era un nome, mi ricordo. Sì. Wikipedia bisognerebbe tenerla sempre sul comodino. Quel giorno ce l'avevamo, adesso io purtroppo non me lo ricordo. Ragazzi, più. Comunque la neve a palla, la neve. Cerco neve che neve dal basso verso l'alto. Certo. Neve dal basso verso l'alto, era quella gelata dentro a palle di popcorn. Neve dal basso. Pardo, cosa hai bevuto? Cosa hai bevuto a pranzo? Cos'hai mangiato? No, ho mangiato uno spaghettino con le vongole. Sobrio? Sì. Sobrio. Sara, cosa vuoi chiedere a Pardo, a Crosetti? Scegli tu, l'interlocutore. Oh mamma mia. Come mamma mia? Non vale il numero di telefono per Crosetti, sappiamo che da quando ormai frequenta le televisioni è diventato un nuovo symbol del Piemonte, sì, centrale. Quanto... Vabbè. Quanto pensa che Conte possa andare via a fine anno? A chi lo chiediamo? Buona domanda. A Crosetti. A Crosetti. Si legge in Inghilterra che vorrebbe andare allo United. Beh, ci sono tentazioni forti, perché effettivamente andarsene quando si è raggiunto il massimo di quello che si poteva in Italia è una tentazione. Avere delle panchine importanti, raggiungibili, è un'altra tentazione. Dopodiché forse per queste esperienze ci sarebbe anche, c'è sempre tempo, insomma io penso che alla fine resterà, ma mai come in questo momento c'è il rischio di perderlo. So che non ho risposto, però non lo sa nessuno. Il Times questa mattina scrive di contatti con il Manchester United avviati e concreti, e lo scrive un giornale credibile, insomma, non un giornale scandalistico, dopodiché chissà. Allora, scusate, posso dire una cosa? Certo. Genta, tu andresti a fare, non lo so, non so cosa c'è, citando Cassano mi verrebbe da dire che sopra Radio 24 c'è solo il cielo, però no, sinceramente quello che voglio dire è che io faccio fatica a dare eventualmente del traditore a conto, no, a Garcia, ma assolutamente, non è un discorso di una squadra ma assolutamente, cioè, si chiama il Manchester United, tu ci vai, si chiama il Barcellona, ma ci vai, ma anche perché io continuo, capito, a pensare, andiamo l'anno che... prossimo a condurre Sanremo, se ci chiamano ci andiamo, io Genta, però andiamo? Chiaramente non ci chiamano, però voglio dirti, è ovvio che, ma come, perché no, ha chiamato ancora Carlo Conti, magari una volta che decidono di darsi una botta di vita andiamo io, te e Crosetti, facciamo bene, lanciamo questa autocandidatura con ma Crosetti e Sara anche, anche Sara, tutti a Sanremo. Io continuo a pensare che, essendo un pelo lungimiranti, allora Conte è un allenatore che di quella categoria lì, che può durare tre anni perché ti stressa, perché è uno che ti mette sotto pressione, eccetera, eccetera. È un allenatore di quella categoria, ma come Mourinho, peraltro. Quindi, essendo un pelo lungimiranti, secondo me un sereno divorzio non sarebbe una cattiva idea, e continuo a pensarlo. Prima di salutare Maurizio Crosetti e di ricordare a Maurizio Crosetti che la Juventus potrebbe festeggiare lo scudetto nel giorno dei barbieri, nel giorno di riposo dei barbieri, lunedì sera. Lo dice a me, stasera decido dopo la partita dell'Olimpico se preparare lo zainetto e andare a Reggio Emilia oppure no. Lunedì sera, io sono convinto di tifosi della Juventus. Il signor lunedì sera. Cioè, non possono vincere uno scudetto in contemporanea con Tiki Tak, cioè, non l'hanno avvertita la Juventus. Ma succederà così, o il 28 o il 5 maggio. Molto probabilmente. Ma sarà anche un'occasione per è proprio organizzato da Tiki Taka questa cosa, no? Sì, è organizzato da Tiki Taka, il grande spottone di Tiki Taka. Sì. No, io volevo chiedere a Maurizio Crosetti, prima di salutarlo, se è mourinhiano o guardiolista. Prima ci ha dato il pezzo di Andrea Sorrentino sul tuo giornale, bellissimo il titolo: ciao Tiki Taka, noi andiamo in porta. Come faccio a essere contro il Tiki Taka? Io non posso, non ce la faccio, è come Fonzi che non riusciva a dire ho sbagliato. Questo come battuta, in realtà mi ha un po' stufato il Tiki Taka, ma non perché adesso non è più di moda, lo diciamo tutti. Perché i preliminari sono una bella cosa, ma l'amore è meglio. Beh, veramente. Questa è strepitosa. Straordinario. E d'altra parte, l'imperatrice di Germania vestita alla spagnola a me non piace. Come non piace a Beckenbauer, eh? Ma secondo me sono molto belli i preliminari lunghi del Tiki Taka, quando però poi appunto si arriva al risultato. Adesso non vorrei, siamo anche fascia protetta, insomma, sì. Voglio dire. Però è questa la sostanza, cioè se i preliminari, cioè il Tiki Taka, sono strumentali al risultato, allora vanno benissimo, sono stati un modello vincente, lo possono essere ancora. Non è il mio preferito, io l'ho sempre detto, a me piace più il calcio kick and run del Manchester United, certo, dei tempi d'oro, cioè mi piace il calcio un po' più fisico, un po' più verticale, certo. Però insomma, che gli vuoi dire? Allora, il modello di riferimento è la Roma, secondo me, cioè il mio calcio, sì, ideale gioca bene, certo, su scala nazionale, però la Roma è quella della Roma, è il mio calcio ideale. Allora, ciao Maurizio. Ciao, arrivederci presto, cari. A prestissimo, Maurizio Crosetti. 800 24 00 24 per intervenire. Pierluigi, tu stai lì, eh? Sì. Abbiamo la borsa? Sì, abbiamo la borsa, naturale, anche il 25 aprile. Tutti convocati. Allora, Sara, c'è un messaggio per te, 349-238-6666, tra un attimo te lo leggo, ma Roberto Scaltritti, mi fai sentire Mazzarri che sta parlando in diretta? Allora, intanto ogni allenatore ha le sue idee di gioco, io dagli esterni voglio determinate cose che magari altri allenatori non chiedevano, e ci sono i ragazzi che arrivano abituati in un altro modo, ci mettono un pochino di più a capire quello che voglio. Al di là di questo, per me D'Ambrosio comunque ha fatto una buona partita, è uscito sull'1-0, vuol dire che la squadra stava vincendo, è uno affidabile, può migliorare in fase offensiva per come voglio io, questo è vero, ma lui lo sa. E Jonas è un giocatore che ha fatto sempre bene, purtroppo era fuori per infortunio, oggi valuterò se è in condizioni di poter giocare, perché ha ancora un po' di paura per l'infortunio che ha avuto. E ieri l'ho lasciato un po' a riposo, oggi valuto bene se è il caso che giochi lui o D'Ambrosio. Domani partita dai mille risvolti, per Mazzarri e per Benitez, ovviamente, questo confronto tra Napoli e Inter. Dentro a questo confronto tra Napoli e Inter ci sono un sacco di storie, un sacco di cose, un sacco di anche rancori. eccetera eccetera eccetera. Tra l'altro Benitez oggi ha fatto alcune dichiarazioni relative al mercato, poi le facciamo anche sentire. Tornato Pardo? Che è andato, sì, sei andato a farti il dolcetto? Senti qua. Sei pronto? Sì, pronto. Tutti, dobbiamo tutti a Sanremo, Oltre a Sara, chi serve? Melissa sì, sicuramente. Sì. Melissa, Sara, basta, due donne, basta. Sì, si alternano. Io te Crosetti, io senza Crosetti non vengo. È chiaro, Crosetti fa, secondo me, fa il, come si chiama, il dopo festival, fa la giuria, fa la giuria quella. Cioè, qualità, abbiamo già in mente tutto, eh. Cioè Carlo Bossi Conti è stato Sassi, invitato. Sass, Battiato, tutta roba di grande qualità. Poi vorrei Springsteen ospite internazionale, se non ti dispiace. No, farei la prima serata di Sanremo, farei, diciamo, 2 ore Springsteen che suona e poi facciamo, sì, poi facciamo qualche highlight di tutti gli altri. Poi bisogna vedere quanto costa Springsteen, perché non vorrei che poi abbassassero il nostro cachet. Io voglio tanti soldi, non so. Poi c'è anche il rischio magari che gli ascolti possano peggiorare, ma spero di no. Springsteen penso sia universale. Va bene, ho twittato la foto del gatto, per il signor Piantanita che ci teneva. Tra l'altro Sara qui presente mi confessava di avere un gatto che... Avevi un gatto, è passata miglior vita, si chiamava? Darko. Nel microfono. Scusami, Darko come Kovacevic della Juventus, sì, sì. Un po' di anni fa. Cioè uno meglio, juventinissima, cioè malata. Però chiamare il gatto Darko, cioè al di là del... Uno meglio non c'era, insomma, Zizou, una roba... Aveva la faccia da Darko. Il gatto, sì. Gatto, sì. Gatto d'arco, sì. Tra l'altro c'è un messaggio, io voglio convocare tutti i gufi in giro per il pianeta, 800240024, uno, eccolo qui, mi scrivo un messaggio. Vorrei chiedere alla Sara in studio se 2 anni dopo Istanbul si è divertita altrettanto o forse preferisce emozioni tipo Borussia Dortmund, Hamburgo, Real Madrid, Ajax. Dimenticavo, Manchester 2003. Ancora le cicatrici. Maurizio Formia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Io sto godendo come un matto riccio, sì, per la sconfitta della Juventus ieri sera e oggi per il mare di Sperlonga, bellissimo. La sconfitta della Juventus è la cosa più bella che possa aver vissuto in questi giorni. Sì. Che quando vedo piangere Conte io godo, sì, tantissimo. Poi all'ultimo minuto, alla fine del finale. Sì. Quel gol di Muntari grida ancora vendetta, urla, sta urlando. Urla Muntari, mamma mia, Muntari, quel gol non passerà mai. Che previsioni ci sono? Che domani volevo fare un salto lì, che previsioni ci sono? Domani piove, vero? Dove? A Formia. Qua è una bellissima giornata, io sto per Londra ed è bella, sì. C'è qualche nuvola, ma è bella. Mettiamo il dito, magari stai da Rocco a mangiare la pasta con... Ciao verde. Ecco, adesso il punto vero è domani com'è il tempo? Stasera c'è Roma Milan. Domani non lo so. Oggi domani brutto. Colgo l'occasione per chiedervi, sì, ma sapete qualcosa del Milan? Che cosa hanno intenzione di fare? Se è pervenuto qualcosa? In che senso? Ma no, le idee, non si capisce nulla. Cambiano l'allenatore, cambiano il direttore sportivo. Io sono un tifoso del Milan, ma non... Intanto abbiamo le dichiarazioni, quello che ha detto ieri sera porta a porta Berlusconi, ha detto queste cose. Un attimo che arriva, sta arrivando. Eccolo qui. Ecco. Il Milan, ecco. Si vende, vale 500 milioni? No, non si vende e vale di più. Di più quanto? Di più. 510? No, non scherziamo sulle cose sacre. Capito? Quindi questo sul fronte societario. No, io penso che il Milan lo cederanno a parametro zero, secondo me. Questa è la battuta dell'anno, detto da un milanista. Poi no, io ormai è nel DNA del Milan il parametro zero. Grande Maurizio, Milan lo cederanno a parametro zero. E sì. Per ora posso dire che sono schermaglie, nel senso che al di là di quel comunicato col cut and paste, il copia e incolla che c'è da anni. Sì, che ogni tanto non cambiano neanche la data, Pier. Mi sembra che ieri sia uscito con una data di marzo, una roba del genere. Però insomma, a parte tutto, io credo che sia sia certamente una, insomma, poi alla fine a un certo punto se arriva l'offerta e se è un'offerta congrua, come qualsiasi società al mondo ci si siede attorno a un tavolo e si ragiona. Quindi io penso che non sia impossibile. A quello che sembra, insomma, l'offerta c'è ed è un'offerta interessante. Poi chiaramente in questo momento la prima reazione che qualsiasi potenziale venditore ha di fronte a una cosa del genere è quella di dire non se ne parla. Ma guarda, per la verità, fa parte della logica delle cose. Guarda, no? Per la verità, ieri qui Marco Berinazzo, che è uno dei più informati sul pianeta, certo, su questi affari, dice che nel senso che questo Lima è uno che è anche in cerca di visibilità, di attenzione mediatica, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro risulta che siano soldi non facilissimi da spendere, quella montagna di soldi di cui è in possesso lì, non si sa bene, insomma, quale sia provenienza, eccetera. Morale, Berinazzo è molto dubbioso sul reale interesse, sulla reale disponibilità, sulla reali intenzioni, tanto che questo non si è presentato in tribunale dopo aver detto compro Valencia come udienza per definire, per staccare l'assegno, non si è presentato, non pervenuto. Quindi secondo me è molto da verificare questo potenziale acquirente. Invece il signor Seedorf è ovviamente più ex che attuale allenatore del Milan, a prescindere dai risultati, cioè ogni giorno che passa è più esautorato, no? Questo è un paradosso, perché passano i giorni, addirittura passano vittorie, succedono tutta una serie di vittorie, ma invece in realtà quello che leggiamo sui giornali è una situazione sempre più in bilico. Di solito le situazioni vanno in bilico quando si perdono le partite, qui invece le partite le sta vincendo, e quindi è abbastanza paradossale tutto questo. Però lo possiamo spiegare solo, come dicevamo qualche giorno fa, con un riequilibrio e riposizionamento dei poteri all'interno della società. Detto questo, stasera, visto che stasera si gioca una grande partita, certo, che non vedo l'ora di raccontare, che è anche il principale motivo per il quale non sono con Maurizio in questo momento a Sperlonga, è anche il fatto che questa partita di stasera può sparigliare, nel senso che può essere veramente la partita che o ti dà, se il Milan fa risultato positivo, una patente di un certo tipo, oppure non dico che annulla le 5 vittorie consecutive, perché non le può annullare, la Roma è una grande squadra ed è chiaramente favorita per stasera, però insomma se ci dovesse essere una sconfitta pesante, stasera lascio a raddoppia. Piccolo diploma per il Milan, no, in effetti è così, è un piccolo diploma per Seedorf e per il Milan di questo mini ciclo, perché adesso il luogo comune è, va bene, 5 vittorie, però contro chi? Il Milan ancora non ha affrontato in questo periodo di tempo squadre particolarmente competitive. In realtà c'era la Fiorentina fuori casa, la prima delle 5 vittorie, che chiaramente che è iniziato la serie. Ma è più poi un discorso, secondo me, di risultati, un po' di avversarie e un po' anche di prestazioni, perché per esempio Milan-Catania è stata una vittoria, però è stata una vittoria abbastanza bruttina in casa contro l'ultima in classifica, 1-0, rischiando, no? Ma ci sta, no? Oggi sapremo, stasera alle 22:50 sapremo se realmente Seedorf ha cambiato in qualche modo la testa a questa squadra, oppure se in realtà le 5 vittorie sono state frutto di una serie di episodi e di situazioni che poi, quando trovi un avversario superiore, vengono clamorosamente disattese. E poi chiaramente ci sarà anche il test del derby, e poi c'è anche il discorso dell'Europa League, nel senso, comunque, se alla fine Seedorf arriva in Europa League, dopo che insomma si era fatto capire che questo obiettivo poteva essere, e quando era stato fatto capire l'obiettivo era molto difficile da raggiungere, no? Certo. Ma si era da fa. Si era fatto capire che questo obiettivo poteva essere utile per ottenere la riconferma, per poi se Seedorf ci riesce e lo cacci via, è abbastanza complicata da difendere come situazione, soprattutto verso quella parte dei tifosi del Milan che in questo momento comunque guardano con fiducia a Seedorf. Ma infatti tutto accadrà a prescindere dai risultati, e questo è come è accaduto, insomma, che Seedorf è stato chiamato perché l'ha voluto Berlusconi, perché era l'allenatore del futuro, eccetera eccetera, verrà sollevato dall'incarico a prescindere dai risultati, e tutto questo è molto molto strano. 800240024, caro Pierluigi, ci sono nuove dichiarazioni di Mourinho, te le racconto e te le leggo dopo la borsa, dopo il traffico. Convocati. Sì, tra l'altro Franco da Mantova scrive: dopo un anno invece sull'altro fronte, cioè quello nerazzurro, non dimentichiamo che il Milan ha anche un altro banco di prova fondamentale, che sarà quello del derby tra una settimana. Dopo un anno l'allenatore dell'Inter non ha ancora dato un gioco alla squadra e viene confermato, poveri noi, mentre Seedorf adesso è sulla via d'uscita dal Milan. A proposito, Seedorf ha parlato in conferenza stampa ma vi siete telefonati? Hai sentito il presidente in questi giorni? Cosa ha detto Seedorf? Si parlava delle tue telefonate, non telefonate con il presidente, lo sapere se una settimana dopo c'è stata una telefonata. No, oggi sinceramente voglio parlare d'altro. Oggi sinceramente voglio parlare d'altro, non sì. Delle telefonate con il signor Berlusconi. Posso dire una cosa su Mazzarri, certo. sull'ascoltatore precedente, sì. Che era perplesso. Io dico anche una cosa: sicuramente Mazzarri non ha fatto la migliore stagione in assoluto della sua carriera, però Mazzarri ha una storia, cioè la differenza tra Mazzarri e Seedorf, al di là del fatto che secondo me andare via Seedorf in questo momento è molto coraggioso con questi risultati, sì. Io aspetterei fine stagione e vedrei almeno. Però insomma, Mazzarri ha delle spalle larghe da allenatore, ha una storia, ha un record di successi importanti. Si può discutere magari Mazzarri dal punto di vista del trionfo finale, cioè si può avere il dubbio che non sia un allenatore capace di vincere lo scudetto, capace di vincere molti trofei, ma sicuramente è un allenatore che le squadre le fa crescere, è sempre successo ed è successo a livelli importantissimi, per cui io non credo che l'Inter l'anno prossimo sarà da scudetto, sinceramente. Secondo me non è sbagliata la scelta di Toir di dargli un altro anno, insomma la percentuale, come ripetiamo spesso, la percentuale di successo percentuale di successo telefono di Pardo Balotelli giuro che a Natale gli regalo un telefono a Pardo. Stavamo parlando di Mazzarri. Raffaele, provincia di Napoli, cosa c'è? Pier, ci sei? Sì. Io sono fermo a casa, fermo. Immobile, ho dichiarato, non sarà una sorpresa, ma ho già dichiarato il tuo. L'hai messo in attesa? Vabbè, comunque, ho dichiarato il tuo regalo di Natale. Io ti regalo un telefono a Natale. Giuro. Ma l'ho appena cambiato. Che poi sarà lo stesso che Seedorf regalerà a Berlusconi. Brava, sarà lo stesso telefono che Berlusconi regalerà a Seedorf per Natale, così si sentono a distanza. Dopo che l'ha cacciato via, si sentono a distanza. Magari ricominciano i contatti tra Seedorf e Berlusconi. Raffaele, stavamo parlando di Mazzarri, lei che dice? Buongiorno, no, guardi, a me di Mazzarri francamente non importa niente. Esatto, non è che mi interessa, anche se condivido pienamente con quello che dicono tutti quanti, che questo si lamenta sempre, non dice mai è colpa mia, dice sempre è colpa dell'arbitro, è colpa delle cose, quindi comunque la ringrazio per avermi convocato. Volevo sapere due cose sulla partita di stasera. Non pensa che possa purtroppo venire a cadere delle motivazioni per la Roma, e a parte che la partita in partenza è falsata, perché se si ricorda bene la settimana scorsa Abate doveva essere espulso nettamente, il Milan fece dei fallacci incredibili, l'arbitro Chieve insomma fece una cosa che tra l'altro potrebbe non giocare. Cioè doveva non giocare perché doveva essere espulso, si ricorda la partita con Livorno. Quindi l'arbitro ne fece di tutti i colori in favore del Milan. Volevo sapere se la partita di stasera per la Roma può avere delle motivazioni ancora importanti, visto che il secondo posto già è finito. Io non vorrei che facessero, diciamo, fosse una passeggiata per il Milan. Non credo. Al di là di, guardi, io vorrei, non so se Pardo vuole raccogliere la dietrologia che io accantono. Scusa, poi volevo fare una battutaccia su Pardo, che mi è molto simpatico. C'è un mio amico che mi ha detto una parodia sul titolo della decisione di Pardo. Chi ti caca può essere pericolosa, dicendo qualche nemico di Pardo potrebbe dire chi ti caca. Ma è una battutaccia. Lo sai, simpaticissimo, lo seguo sempre. Volevo solo dire l'ultima cosa sulla Formula 1. Pensa che possa durare questo dominio io sono un tifoso di Lewis Hamilton. Posso andare avanti? Lewis Hamilton vincerà il mondiale a zoppetta, come dicono dalle parti di Pardo, perché credo proprio non ci sia storia, non ci sia storia su questo conto. Roma senza motivazioni, ma dove, Pierluigi? A Roma non so, vuole anche il nostro amico ascoltatore lanciare il traffico, però no, su tutti caga è divertentissimo. Ieri sono tutti gli autogol. e anche prima c'è stata la parodia, bellissima, io sono proprio autoironico, quindi dico benvenuti a chi ti caga, proprio lo dico io. E no, per quanto riguarda il resto, no, io penso sia una partita bellissima. Secondo me può essere veramente molto molto divertente, proprio perché è una partita importante con delle motivazioni. La Roma ovviamente vuole lottare fino all'ultimo, Garcia ha dato questa mentalità alla squadra, lo si è visto anche a Firenze l'altro giorno. Questa è una squadra che comunque continua a vincere e vuole spostare il giorno del festeggiamento della Juve. Questa è la realtà della Roma. Il Milan comunque ha delle grandi motivazioni, però è anche una partita, diciamo, che non mi aspetto particolarmente bloccata, perché comunque diciamo che c'è la possibilità di giocarsela a viso aperto, certo, e di regalare spettacolo. Quindi io penso che sia molto molto divertente. Ma doveva essere espulso, ma non è che adesso c'è un complotto, sì, non è che c'è un complotto interplanetario contro la Roma, perché Rami, che tra l'altro non giocherà a quanto risulta perché ha problemi fisici, credo. Io spero di sì, anche perché ho passato un quarto d'ora della mia vita stamattina a preparare tutta la storia di Rami, che ha vinto lo scudetto nel 2011 con Lille, con Garcia, quindi insomma sarebbe una storia bella. In ogni caso si conoscono molto bene, quindi spero che giochi, insomma. Qui non mi sento libero, ogni volta che parlo ci sono delle conseguenze. Perché? Perché? Voglio vincere come sempre, è ovvio, cosa credete? Perché? Il Chelsea merita rispetto, è l'ultima vostra rappresentante in Champions, quella che ha vinto di più negli ultimi anni, meritiamo più rispetto. L'ha prostituzione detto? Intellettuale, intellectual prostitution. José Mourinho, qui non mi sento libero, ogni volta che parlo ci sono delle conseguenze. Questa potrei dirlo anch'io, anzi l'ha adotto come slogan. Che ti fanno? No, c'è Alessandro che chiama, che mi fanno? Alessandro? Sì, buongiorno. Lei, due cose velocissime. Sì. Prima lei ha detto che per la laurea ci vuole il diploma. Vabbè, sì. Per quanto riguarda Buffon, lui ha dichiarato che l'ha già comprato. In un'intervista a Giancarlo Perna, lui il 5 gennaio 2009, salvo smentite, sì, lui dice: io il diploma di ragioniere l'ho comprato. Va bene, quindi per quanto riguarda Buffon siamo già a posto. Adesso serve a comprare la coppa. Quanto viene Europa League sul mercato? Perché andava alla Cepu, poi abbiamo fatto alla Cepu. Ragazzi, quante magliette abbiamo oggi? No, perché me ne serve un... chiama il marketing, perché ci servono molte magliette che ti convocati. Penso che questa iniziativa del marketing delle magliette, secondo me, sta stimolando i nostri ascoltatori, punta al titolo di migliore in campo della giornata. Sì. No, che poi tra l'altro tutti dicono: ma no, il 25 aprile siete in diretta, ma vedrai che non chiama nessuno, sì. Come no? Dopo. No, oggi non c'è neanche il GR, Pier. Senti, posso portarti oltre le colonne d'Ercole delle 15? Vieni con me. Lo possiamo far noi, il GR, non è un problema. Facciamo. Vado su un sito, le notizie principali e ve le do, autogestione serena. Dai, allora preparati. Ucraina, altro tentativo in Russia, distrutto elicottero militare. Vasco, resto il numero 1, ma anche il numero 2 e il numero 3. 25 aprile, Renzi, grazie ai ribelli di allora. Presidente napolitano, valori incancellabili. Thyssen, Cassazione, nuovo processo. Guariniello, chiederemo pene più dure. E chiudiamo con riforme. La Boschi risponde a Berlusconi, fa campagna elettorale. Forza Italia. Qualcosa di piccante non c'è. News, cioè, tornano per chiudere. Alle 15:30 linea a Carlo Tresta. No, ma scusami, ma una chiusura, chiudi con quelle notizie. No, ci vuole una chiusura un po' più morbida. Temporali d'arrivo, le previsioni per domani. Pioverà in tutta Italia, anche a Perlonga. Gossip. Gossip, non lo so, il cucciolo più bello d'Italia si chiama Dakota. Chiudi. Aspetta, chiudi. Vabbè, entra Schürrle, stanno facendo un notiziario. Entra Dembaba e Dembaba segna. Questo si chiama culo. No. For the rest of this season, are you still going to consider yourself as a player as well as the manager? I'll just give myself a 5-year contract. So, I'm using my power while I can. Sinceramente non so come gli sia venuto in mente fare una pista qui. Una cosa molto bella è che ci sono lo stesso numero più o meno di curva, destra e sinistra, quindi lo stesso stress per le gomme di qua e di là. Il Milan si vende e vale 500 milioni? No, non si vende e vale di più. Di più quanto? Di più. 510. No, non scherziamo sulle cose sacre. Finisce qui il primo tempo. Tutti convocati. Cara Sara Magnani, nostro opinionista per un giorno, sai cos'è questa musica? No. La rumba. Sai perché? Sai perché? No. Perché c'è la rumba degli allenatori. Dopo il GR by Pierluigi Pardo, momento imperdibile, c'è Alessio da Bangkok che scrive: ma quando togliete le info sul traffico? Vi ascolto in streaming tutti i giorni da Bangkok e non è che me ne importi molto del traffico sulla A4, hai capito? Faremo un aggiornamento sul traffico thailandese. Traffico sulla A4 a noi molto cara, ad Alessio da Bangkok non ne frega niente. Comunque, rumba degli allenatori, mai così vistosa, mai così opulenta, mai tante panchine importanti in ballo. Però dopo Sanremo potremmo candidarci anche per qualche panchina. Quale vuoi? Manchester. Bravo, anch'io. Manchester United. Però pare che Giggs, senti cosa ha detto. Senti cosa ha detto. For the rest of this season, are you still going to consider yourself as a player as well as the manager? I've just given myself a 5-year contract. So, I'm using my power while I can. Capito? Io sono il manager, mi hanno nominato manager, mi sono fatto 5 anni di contratto. Mica male, eh? Ryan Giggs, grandissimo Ryan Giggs. Poi c'è Klopp, che insomma molti vedono proprio sulla panchina che vorremmo noi, cioè quella del Manchester United. Però lui ha detto di no. Infatti, ha detto di no. Ich finde tatsächlich, dass Manchester United ein großartiger Verein ist. Aber es ist auch tatsächlich so, dass solange die Dinge hier so ablaufen, wie sie ablaufen, habe ich eine klare Vereinbarung mit Borussia Dortmund. Tedesco, ovviamente, lo sappiamo tutti, tedesco. Tutto chiaro, chiarissimo. Non ho bisogno di tradurre. Resto al Borussia Dortmund a condizione che si continui con questo progetto che mi interessa. E poi, senti questa, Pierluigi, Ranieri. Vous savez che l'entraîneur, c'est comme les maris. C'est le dernier à savoir la chose. Hai capito? Quand je dis che l'entraîneur e le mari c'est le dernier à savoir la chose, c'est vrai, si il y a le corne, comment ça fait, et coucou, si è coucou, c'est le dernier à savoir la chose. Traduci, sembrava quasi barese alla fine, sono le derniere a savoir la chose. L'allenatore è come il marito cornuto, sempre l'ultimo a sapere le cose. Grandissimo Ranieri, grandi. Sembra un po' barese alla fine, però grandissimo Ranieri. Insomma, c'è questa rumba delle panchine, cui si aggiunge anche Conte. Che molti danno come possibile al Manchester United. Questo lo scopriremo abbastanza vivendo, come cantava il poeta Pierluigi. Io Conte su quella panchina sinceramente non riesco a vederlo. Poi Ma perché? Per molte ragioni, compreso il fatto che insomma prima esperienza internazionale su una delle panchine più importanti del mondo, vediamo se alza l'Europa League. Stefano Boldrini dall'Inghilterra per la Gazzetta dello Sport è caduto, mi fanno segno dalla regia, ma adesso lo recuperiamo, anche per chiedergli di Conte, oltre a insomma un preview di questo Liverpool-Chelsea, che insomma sarà, onestamente, domenica non c'è molto nel calcio italiano, menù da quaresima. È il posto dove essere domenica, dai. Anfield Road è il posto in Europa dove stare se ti piace il calcio. Sicuramente devo dire che c'è anche la partita dell'Atletico Madrid a Valencia, che è altrettanto importante. Sono le due sfide della domenica. Atletico Madrid-Valencia si gioca alle... Si gioca oggi e domani abbiamo Roma-Milan, abbiamo Inter-Napoli, che sono una partita molto sfiziosa, abbiamo Sassuolo-Juve lunedì, quindi insomma, è la domenica che fatica un po' da noi, con una serie di suggestioni più che altro per l'Europa League e per la salvezza interessanti. Però è chiaro che insomma lì c'è il Liverpool che 24 anni dopo può vincere il campionato. Diciamoci la verità, domenica pomeriggio 15:05, ora del fischio di inizio, saremo tutti sintonizzati sui fiori. Tra l'altro posso dirti questa cosa? Sì. Dillo anche a Stefano Boldrini, che è tornato in linea. Ciao Bold. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Ti dico questa cosa eccezionale, no? Adesso anche ieri la Juve ha fatto un ascolto record, è stato il programma più visto della serata su Canale 5 con il 100%. L'altro ieri Real Madrid-Bayern ha fatto il 17%, il 16%, no? Insomma, è stato il programma più visto della giornata, una partita di squadre straniere ha fatto 4 milioni e 3 sulla TV pubblica. Cioè, la mia sensazione, come dicevamo un po' di tempo fa, è che ormai il grande calcio internazionale è parte della vita delle persone, un po' forse perché il nostro calcio è caduto di livello e quindi ci consoliamo vedendo quelle partite, ma questo per me, che amo questo gioco più che amare un campionato nello specifico, l'italiano piuttosto che un altro, è una gioia immensa, cioè sapere che ormai una partita come Real Bayern non la vedono solo i super appassionati, ma se la guardano, tutti, perché 4 milioni e 3, insomma, primo programma della serata è una cosa. Ma certamente, questo più, è un tema... più il milione di Sky, più i 600.000 di Mediaset Premium. Quindi questo è un tema interessantissimo. Questo è un tema interessantissimo. Sara, tu l'hai visto Real Bayern naturalmente, sì, Sava Sandir, con grande passione tifando per il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Stefano Boldrini, eccolo qua. Stefano. Eccoci. Ah, interessante il discorso di Pardo, eh? Non so se è frutto della globalizzazione. No, lo condivido, anche perché dimostra che il pubblico è meno provinciale dei giornali. Cioè, mi spiego, io credo che se poi noi andassimo a fare un'analisi di questi milioni di persone che hanno seguito la partita dell'altra sera, tra l'altro con una telecronaca godibilissima di Pierluigi, credo che una buona base sia costituita da giovani. E perché? Perché i giovani oggi con le tecnologie, con Facebook, con Twitter, con la TV, con i tablet, con tutto quello che volete, sono un passo in avanti, cioè loro, io anche avendo un figlio di 20 anni vedo come si regolano i gusti, per loro è chiaro che un Real Madrid Bayern Monaco, cioè non c'è partita, ma lo dico senza offendere neanche i tifosi juventini di ieri, ma è la realtà, neanche con un Benfica Juventus, c'è poco da offendere, è la realtà. C'era il meglio l'altra sera, poi chiaro la sera prima invece c'era stata una partita noiosissima, c'era stato Atletico Chelsea, ma lì diciamo non solo è una questione di due filosofie di gioco diverse, ci sono due squadre che da un punto di vista tecnico comunque sono sicuramente inferiori, però ripeto, al di là poi delle considerazioni che facciamo sul Real Bayern, basta vedere gli ascolti delle partite del sabato. Oggi tu c'hai un'offerta che ti porta nelle case la Liga, la Bundesliga, la Premier, la stessa Liga One. È chiaro che tu preferisci vedere certe partite piuttosto che noiosissime gare in casa nostra. Questo è un altro argomento interessante, siamo... perché ha più appeal, secondo me ha ragione Stefano Boldrini sul fatto che queste grandi partite internazionali hanno molto più appeal su un pubblico giovane rispetto alle piccole grandi magari del nostro campionato, Sara, no? Un po' confermato sei giovane. Giovanissimo. Dicevi, Pier? No, che secondo me ormai sta nascendo una generazione, ma secondo me non soltanto i ragazzi, Stefano diceva giustamente dei suoi figli, chiaramente sì, nei ragazzi questa cosa è più evidente, ma secondo me le persone di mezza età che cominciano ad avere una squadra del cuore magari in Inghilterra, una squadra del cuore in Germania, in Francia, magari la Germania è un po' meno divertente come campionato, però insomma è diventato un calcio di tutti, cioè anche perché comunque abbiamo una contaminazione di personaggi che vanno da un campionato all'altro clamorosa, per cui per l'esempio te lo dà la Champions League, no? I quattro allenatori delle quattro squadre di Champions li abbiamo conosciuti tutti, o perché sono nati in Italia Ancelotti, o perché ci hanno giocato come Simeone e Guardiola, o perché ci hanno allenato come Mourinho. Cioè nessuno indifferente in Italia per dirti a Mourinho, io sono convinto, anzi, che Chelsea Atletico mercoledì farà un altro grande ascolto, anche se sarà bruttissima l'andata, sì, perché in Italia tutti hanno un'opinione su Mourinho, ma sarà chi lo tiferà e chi lo buferà. Ma scherzi, sta diventando un calcio di tutti, un calcio globale dove ormai la differenza, il confine nazionale è abbastanza aleatorio. Poi la speranza è che in questo calcio di tutti le italiane da qui a 2-3 anni possano giocarsela questo è verissimo. Ma guarda, l'altro giorno dopo la partita di Mourinho, del Chelsea eccetera, abbiamo avuto così tante telefonate che le centraliniste sono impazzite, volevano staccare tutto e spaccarmi la testa, ma perché la gente questa storia la sente tantissimo, cioè in Italia l'Italia è divisa in due, quelli che amano Mourinho e quelli che lo odiano, in due, magari non due metà uguali, più lo odiano che lo amano. Sì, io credo che sia così, però ognuno ha un'opinione su Mourinho. Quella di Stefano Boldrini è io mourinhiano, guardiolista, che vorrei sempre avere nella mia squadra. Poi perché magari forse preferisco il concetto di vittoria a quello di spettacolo, anche perché sono comunque convinto che vincere sia comunque spettacolo. Ma certo. Poi è chiaro che se poi mi dici da un punto di vista estetico, forse ci sono degli allenatori che danno qualcosa in più. Io vi dico una cosa però, il Bayern Monaco di Guardiola a me non mi esalta, l'ho visto pure qui con lo United e non è che mi abbia impressionato. La partita dell'altra sera dimostra che poi sì, il copione, lo spartito è importante, però poi sono anche i musicisti che in qualche modo lo nobilitano, e l'altra sera si è vista una squadra come il Real Madrid che, pur subendo il possesso palla del Bayern, però ha avuto più occasioni e comunque è stata in partita in modo più che dignitoso. Io non mi schiero, cioè io le guerre di religione nel calcio credo poco, perché poi penso che alla fine sotto sotto tutti vogliano vincere. È chiaro che ci sono delle strade diverse. Mourinho sicuramente riesce a ottenere il 110% dai suoi giocatori. Bravo, e la dedizione non è una cosa totale che hanno tutti i tecnici. No, lui infatti, questa riesce infatti davvero a ottenere il meglio. Per me il Chelsea in semifinale è già un miracolo, se poi dovesse andare in finale sarebbe oltre il miracolo. Certo, ma lui questa è la qualità principale di Mourinho, cioè lui crea una setta e dentro quella setta tutti ci credono fino alla disperazione. È chiaro che il gioco non dura più di 2-3 stagioni perché poi li esasperi, però questo è il grande pregio di Mourinho, quello anche di convincere giocatori con grandi contratti, con grande appeal mediatico, con tutto quello che volete, che portano quelle scarpe, quelle magliette, a giocare con la tuta blu degli operai. E questo è il grande pregio, secondo me, di José Mourinho. No, Pier? No, sono d'accordo, non ho capito se mi hai salutato. Assolutamente. Io penso che nel calcio, chiaramente nell'eccellenza e nel grande equilibrio del calcio di oggi, il fattore motivazione spesso fa la differenza, perché tutti vogliono vincere, ma c'è qualcuno che vuole vincere, se fai una scala 100, qualcuno vuole vincere 100 e qualcuno che vuole vincere 90. Sì. E la differenza la fa questo, la fa spesso questo senso di credere, di lottare, di avere voglia più degli altri. Sì. Che è un po' il ragionamento che ho fatto anche a Certi l'altro ieri sera in conferenza stampa, insomma. La fame è un concetto un po' astratto, perché non esiste calciatore che vuole perdere le partite, al di là degli illeciti sportivi, che sono chiaramente cose criminali e rarissime, ma tutti vogliono vincere. Il punto è quanto vuoi vincere, quanto sei disposto a spendere ogni goccia di sudore e a spingere il tuo fisico e a scoprire nuove cose di te che neanche sai. A correre 5 metri in più piuttosto che 5 in meno, a rinunciare a qualcosa di tuo per la squadra. Questo era il grande, insomma, la grande alchimia del Milan di Ancelotti quando si inventò quel grande monologo di Any Given Sunday, che è chiaramente è retorico, pomposissimo, però è questo. E lo sport professionistico a quel livello lì, lo sport come qualsiasi eccellenza della vita, come qualsiasi forma d'arte profonda e assoluta, è questa cosa qui, perché non esiste. Nessun talento ti può dare la vittoria se non c'è però un'applicazione totale, folle e disperata di voglia di vincere, che se non hai difficilmente ti porta al traguardo, nemmeno se sei Maradona. Maradona avrebbe dovuto vincere più di quello che ha vinto, Cassano neanche a parlarne, Giorgio pure. Poi ci sono quelli che vogliono vincere più degli altri. Quindi... Sì, ma in maniera quasi feroce. A Stefano Boldrini invece volevo chiedere dello United, della congrega degli ex giocatori, destinato a durare lo spazio di un mattino o di un tramonto di questo campionato. Giggs, Neville, Butt, cui si è aggiunto anche Scholes. Quattro grandi dello United passato a guidare questa coda di sfigatissima stagione. Chi è caduto? Boldrini, mi sa. Boldrini è caduto, dici? Vabbè, vediamo se riusciamo a recuperarlo. C'è l'ennesimo SMS che ho scritto: sarà una voce troppo sexy. È il mal di gola. Renzo, Torino, buongiorno. Eccoci. Dica. Bene, intanto i complimenti, che sono ovvi ma servono sempre. Volevo chiedervi un favore, se contattate Conte, perché io sono vecchietto e a 10 minuti dalla fine io tolgo 3 attaccanti, ne metto uno per ogni palo e un altro in mezzo. E niente, io non mi convinco, lo so, gli allenatori di oggi sono attaccanti, è bellissimo, un grandissimo allenatore. se riuscite a darmi una risposta a queste cose. Sì, poi c'è anche chi chiede perché ha giocato Vucinic. Perché ha giocato Vucinic, domanda qualcuno. È tornato Stefano Boldrini, approfitto della sua presenza, tra poco lo salutiamo. No, ti volevo chiedere della United, degli ex giocatori, Giggs, Neville, Bud Scholes, che è destinato a durare pochissimo, no, questa esperienza. Poi si dice, si scrive lì in Inghilterra da te, Conte forse, magari. Intanto un'operazione nostalgia che va bene in un momento così, lo United che sta vivendo il momento più difficile degli ultimi 25 anni un po' si affida ai suoi totem. L'ha fatto il Milan con Seedorf, non è un'operazione molto diversa da quella? No, questa è una diciamo un'antrina che tocca. Non riusciamo più a parlare con Stefano Boldrini, mi dispiace un sacco, però linee disturbate con la perfida Albione in questo caso. No, dicevo, Pierluigi, non è a guardarla così in maniera asettica, non è un'operazione così diversa rispetto a Seedorf al Milan, poi. Invece secondo me è molto diversa perché Giggs è parte integrante, è una prosecuzione ideale di Alex Ferguson. Mentre Seedorf non è la prosecuzione né di Ancelotti, né di Allegri, né di Capello. Cioè Seedorf è una figura internazionale, estremamente carismatica, estremamente intelligente, di un giocatore che anche negli anni di Milan, pur essendo stato parte fondamentale, importantissima della famiglia rossonera, però portava degli elementi di internazionalità, di carisma, di genialità. Ma scusa, quindi a maggior ragione avrebbe un senso proseguire con Giggs, magari nel futuro o no? Secondo me sì, io adesso non lo so, nel senso che poi la regola non c'è, no? Ci sono degli ex giocatori che hanno appena finito, che hanno fatto cose eccezionali, come per esempio Guardiola, e ci sono altri che hanno fallito clamorosamente. Questo, quindi la regola non esiste. Bisogna vedere. Però io ti dico, Giggs mi sembra la continuità rispetto a Ferguson, cioè Giggs è proprio il guardiano dello spogliatoio, è l'uomo che rappresenta meglio la filosofia di Ferguson, da questo punto di vista molto più di Moyes, e che ha un carisma straordinario, ma ha un carisma organico all'ambiente dello United. Seedorf ha un carisma di discontinuità con la storia del Milan, nel senso che ha fatto delle cose eccezionali, ma le ha fatte da grande cittadino del mondo, da uomo che parla cinque lingue, da giocatore che era stato prima al Real Madrid, da giocatore che in certi momenti da parte di pezzi dell'ambiente del Milan veniva guardato con enorme ammirazione, ma anche con un po' di fastidio, no? Sì, è anche vero che comunque da questo punto di vista Seedorf è stato 10 anni di Milan, il Milan vincente, Milan di Ancelotti, quindi è l'uomo che conosce le dinamiche. Non era il compagno, il compagnuccio di banco. Seedorf era il campione carismatico, che volte un po' rompiscatole perché aveva delle sue prestazioni, che ha contribuito enormemente ai successi del Milan con il suo carisma eccezionale. E da questo punto di vista il fatto che non ci fosse una unanimità sul suo nome al momento dell'arrivo ti dice molto, perché evidentemente c'è chi all'interno dell'ambiente rossonero lo ha considerato una figura, lo considera forse ancora oggi una figura ingombrante, ed è l'unica spiegazione che possiamo dare, perché altrimenti con i risultati che sta ottenendo adesso dovrebbe essere il punto di partenza. Sì, poi è anche uno volendo, è anche uno che ha la presunzione del campione, ma abbiamo sentito l'altro giorno del Botafogo dire che Seedorf è uno che vuole cambiare tutto, rivoluzionare, e ha studiato di notte, studiato, quindi per prendere il patentino d'allenatore. È uno che non dorme mai, come parlo, che adesso salutiamo. Però io volevo Pierluigi, un'ultima cosa proprio su quanto ha detto il nostro ascoltatore da Torino, non è vero? Cioè ieri Vucinic non pervenuto, giocava titolare, non pervenuto, alla fine entra Osvaldo, uno che in questa esperienza juventina non ha dato nulla. Io penso che ancora ieri è stata la partita tra tutte quelle giocate in Europa League nella quale c'è stato il maggiore focus, no? Cioè il maggior livello di attenzione da parte di Conte nello scegliere la formazione migliore, quindi le priorità stanno cambiando, ma credo che ancora la partita di ieri sera non sia stata vissuta con il livello del 100% di focus o la vita o la morte che la Juve ha avuto invece in altre partite in campionato. Sono sicuro che al ritorno con il Benfica sarà vissuta come una finale, veramente come una finale. Poi c'è anche un discorso oggettivo, insomma, che comunque alla fine i cambi ti devono dare delle cose, cioè nessuna squadra, nemmeno Real Madrid, appunto, come diceva prima Sara, nessuno, no, forse lo diceva la figlia di Cosetto, non mi ricordo. ha detto qualcosa. Ha adottato Crosetto. No, però voglio dirti, poi i cambi ti devono dare. Cioè, nessuna squadra al mondo, nemmeno la più forte, può pensare di giocare con 11 giocatori sempre quelli. È importante che chi entra, cioè i cambi sono importanti nel calcio moderno. Ma assolutamente. Servono a darti strappi. E da questo punto di vista, la Juve un problemino ce l'ha, soprattutto davanti, perché ci sono questi due fenomeni e poi dietro ci sono giocatori che si sono incupiti, addirittura spariti come Quagliarella. Cioè, non li fai giocare mai, ma anche Vucinic. Io continuo a pensare che sia un super giocatore. Qualcuno scrive: non eri quello che esaltava lo scambio Vucinic-Guarin. Io resto convinto del fatto che sarebbe stato un affare per entrambi, perché secondo me Vucinic è un super giocatore, però è anche una testa ricamata di questo tipo. Se lo metti ai margini, poi è difficile, quando lo chiami, trovarlo disposto a darti la vita. Certo. Ciao Pier. Ciao, buon 25 aprile, sentiamo domani. Ciao. Dunque, Vucinic, Sara, cosa diciamo di Vucinic? Insufficiente. No, mi piace, mi piace tanto. 4 in pagella, no, però no, mi piace tantissimo. Ma vedi, però che alla fine non si può pretendere comunque di, cioè, di che sia quel campione che dà qualcosa in più quando non lo usi mai. Ma questo vale per Vucinic, vale per Quagliarella, in parte per Giovinco. Per Giovinco, assolutamente. Vedi che venite tutti dalla mia, anche Pardo. La partita ieri sera della Juventus non è stata approcciata nel modo migliore. Un allenatore, no, da il problema è che in Europa non c'è mai una partita che la Juve ha approcciato in maniera positiva. Chi è deputato a lavorare sull'approccio alle partite, Conte, sulla vocazione europea, sul turnover mirato comunque al piano internazionale, eccetera, al coinvolgimento dei giocatori con le rose ampie che servono per squadre che vogliono vincere la Champions League? Insomma, sono tutti piccoli dettagli che poi adesso vediamo, speriamo tutti che Conte, tutti, alcuni, gli juventini sperano che vinca l'Europa League, faccia i cambi giusti come Mourinho, che sì, poi dice, ma che... poi anche una questione di approccio, vedi, di mentalità, di europeismo, non so, questa è la mia idea, non so qual è l'idea di Corrado da Trieste, e poi abbiamo un altro convocato per un giorno, quello della prossima settimana, te lo presento radiofonicamente tra un attimo. Corrado, buongiorno. Buongiorno, io volevo esprimere il mio disappunto su questo campionato. Premetto che sono un tifoso della Roma e non sono mai stato un accanito tifoso con gli occhi bendati, sì. Però quello che ho visto quest'anno mi dà l'impressione come se il sistema del calcio italiano non voglia mai che altre squadre di fuori che la Juventus che rientrano in questo campionato. Non è possibile che squadre, io per esempio ho sentito il grido di allarme del nostro allenatore Garcia, che io lo condivido pienamente. Io sono stato a Udine, sono andato a vedere una partita, una farsa sono andato a vedere. Io posso capire che l'Udinese non aveva motivazioni, o che Livorno diceva tanto le prendiamo lo stesso, la prossima la vinceremo. Però vedo questo servilismo nei confronti della Juventus. Corrado, mi perdoni, però non è che nella stessa giornata Roma-Atalanta sia stata una partitissima, Sì, sono d'accordo, però io ho visto l'Udinese giocare con tutta la voglia di recuperare una partita. Ho visto l'Atalanta giocare con l'Udinese. Io sinceramente non capisco come mai in Italia, al di fuori della Juventus, non può esserci una squadra che possa lottare alla pari. Il caso destro, io potrei parlarne tanti di quei casi, probabilmente anche voi non potete dire certe cose. No, noi possiamo dire, no, io le giuro che io posso dire quello che voglio, glielo assicuro. Cioè, il caso destro è passato inosservato. No, ma ne abbiamo parlato 4 giorni. Ma Corrado, ma dove è passato inosservato il caso destro? Ma abbia pazienza, dove è passato inosservato? È passato inosservato per niente, ha fatto un polverone, un casino tale per cui noi stessi ne abbiamo parlato fino alla nausea del caso destro, ma tutti quanti ne hanno parlato fino alla nausea, quindi non è vero. Secondo me non è anche così sbagliato cercare degli appigli al potere oscuro, vuole favorire la Juventus, comprese le avversarie. Non condivido questo tipo di approccio. Tu, Sara, beh, no. Tu sei juventino, che te lo dico a fare? No, ma comunque non vedo questo disegno oscuro. Cioè, l'Udinese ha giocato con servilismo nei confronti della Juventus, l'Udinese ha avuto lo stesso atteggiamento che ha avuto l'Atalanta contro la Roma. Sono due squadre che non hanno grandissime motivazioni in questo momento, sì, come capita che spesso. Non è che l'Udinese abbia fatto un grandissimo campionato, per no, cui non è che non ha fatto un grandissimo campionato, ha fatto una pessima partita contro la Juventus. Niente. Questo possiamo dirlo, sì, certo, ma non vedo questo, ma non aveva niente da questo disegno cosmico partita. Non vedo questo disegno cosmico per far vincere la Juventus. Poi ovviamente il prodotto è le discussioni sugli arbitri, su tutto quanto, sulla signora che è tornata a manovrare come il grande burattinaio i fini del campionato, ma non mi sembrano un po' discorsi di retroguardia interessanti, ma di retroguardia. Allora, facciamo sentire il commento del prossimo vincitore, di chi sostituirà Sara la settimana prossima, spero che possa venire. Nicola Ferrero ci ha mandato questo. Perché la Juventus stia facendo benissimo in Italia, stia stentando in oro con un paio di idee. Innanzitutto un dato di fatto, la Gioia in Coppa non è stata particolarmente fortunata negli ultimi due anni. Fatta questa doverosa premessa, credo che il motivo per cui la Juve sia ancora indietro rispetto ad altri top team europei si possa scrivere a due macro motivi. Il primo riguarda la rosa. E non sto parlando di 11 titolari, ovviamente, sono convinto che in un match secco la Juve possa affrontare piano chiunque. Le violenti note arrivano dalla panchina e non credo di aver svelato una realtà oscura ai più. Padoin, Peluso, Caceres, la grande differenza sta proprio qui, in tutta la sua granitica semplicità. Il secondo punto risiede nel modulo che quest'anno Conte non ha mai cambiato, il 3-5-2. Nessun top team in Europa utilizza più questo sistema di gioco. Penso che questo modulo dia grandi frutti contro avversari mediocri, ma che sia poco efficace contro squadre che fanno della corsa e della proprietà tecnica la propria arma migliore. Credo che sia materia di discussione interessante questa. Perché solo da noi la squadra che vince il campionato gioca col 3-5-2? Stiamo perdendo terreno anche dal punto di vista tattico. La volontà di Conte di avere un giocatore alla cerce, ad esempio, nasce dall'essersi accorto di questo doveroso cambio di rotta. Lo scopriremo il prossimo anno. Sara, saluta Nicola Ferrero. È un grande, bravissimo. Sì. Ciao Nicola. Precisione, pensa alla fatica che mi ha costato essere obiettivo e oggettivo in questa maniera. Sì, eh? Sì, beh, ci sei riuscito però, eh. Più o meno, ci sei, no, più o meno. Posso dire che mi sono commosso per la musica della Champions. Sì. Questo ringrazia Piantanida che l'ha messa lui, eh. Io... Grazie. Ma vieni qui a ritirare la maglietta settimana prossima o no? Assolutamente sì, grande. Nulla al mondo mancherei. Io ti aspetto così parliamo. A parte che diventa una congrega, cioè un covo di juventini, da Sara a Nicola, cioè qui. E poi andiamo tutti a Granata, ma come juventini? Io sono Granata, sto dicendo da me. Grande Nicola, Granata. Senti, ma no, ho notato una certa polemica nei confronti di Conte, ma che io condivido in parte, perché insomma, poi anche la storia delle rose ampie. È vero, la differenza rispetto a Real Madrid, alle solite note, è la profondità della squadra. Però anche qui le rose ampie bisogna saperle gestire, no? E non sono così convinto che Conte, che alla fine ha messo ai margini diversi giocatori, lo stavamo dicendo ora, così abbia in questo momento ancora la capacità di gestire rose ampie di tanti giocatori di livello. Tutti convocati. Allora, Nicola Ferrero che sostituirà venerdì prossimo, convocato qui. Mi raccomando, Nicola, ci sei, no? Assolutamente. Ti diamo un microfono che oggi ha già scaldato Sara, che voleva però certificare con te un certo passaggio di mercato. Sara? Lui. Non mi interessa parlare di mercato prima di Juventus. No, non fare il democristiano, Nicola, fal bravo. Noi dobbiamo finire il campionato. Cosa vuoi fare, Sara? Chi vuoi? Voglio Immobile. Tu vuoi Immobile? Ma io dico che a fronte di un'offerta cospicua e anzi proporzionata al valore del giocatore, scambio Giovinco Immobile. Sì, buonanotte, tante belle cose. Parliamo di grano. Parliamo di cash, eh? Esatto. Ma io ti dirò, a me Seba è sempre piaciuto, credo che per la piazza sia un po' arduo presentare Giovinco come il sostituto di, anche se in verità avrebbe più senso andasse via Cerci e arrivasse Giovinco, credo, per le caratteristiche dei due, certamente. Cioè non può essere Giovinco, non è, esatto, non può essere Giovinco il sostituto tecnico di Ciro Immobile, no? Sono d'accordo. D'altra parte, se parliamo di cash, a quel punto se può fare, ma poi se Conte vuole la rosa ampia, insomma, bisogna diamogli la rosa ampia, no? Poi ripeto, bisogna anche sapere gestire, perché se metti i giocatori ai margini delle rotazioni, poi come è accaduto ieri con Vucinic, non puoi pretendere che questi entrino in campo una volta e ti diano l'anima, o siano anche pronti fisicamente, mentalmente, che so io, sotto tutti i punti di vista, cioè non lo puoi pretendere, cioè devi trovare. Posso fargli una domanda, Sara? Ma certo che poi, se siamo qui apposta. Visto che lei è di fede juventina, ma Pepe è stato tumulato alla No, nel senso che era l'uomo che secondo Conte per un paio d'anni era la chiave di volta che gli permetteva di cambiare i famosi schemi. No, adesso sono molto serio. Come tu ben sai, non so se tu sei di Torino, a Torino girano voci le più, come al solito, quando un giocatore non calca i terreni per tanto tempo, ci sono una serie di contour che girano per la città. A parte gli scherzi, le battute stupide, cioè Pepe è vivo, sta bene? Cioè, secondo me è andato in qualche clinica con El Shaarawy, cioè questi infortunati che si perdono nel... Sì. Quindi scendiamo qui nelle leggende, nei cunicoli delle leggende metropolitane. No, però la domanda di Nicola ha un senso logico, perché Pepe dov'è finito? È vero, era l'unico che gli permetteva di passare, per riagganciarmi a quello che dicevi prima, la cosa che a me ha colpito molto in negativo di Conte è il motivo per cui mi aveva colpito molto in positivo il suo primo anno, che era stato un allenatore molto eclettico, cioè era partito con un sistema, aveva cambiato, si era adattato, era poi arrivato a fine anno al 3-5-2 passando per il 4-3-3 appunto con Pepe. E quest'anno è stato inamovibile nelle sue scelte, ha deciso che lo schema era quello, ed è uno schema che non credo che sia, in Italia sono più forti a prescindere, potrebbero giocare non lo so come vogliono e più o meno vincono il campionato a mani basse, giocano bene, sono forti. Nel momento in cui hai delle mire europee, secondo me devi farti, cioè devi avere tre opzioni alternative. Ci vuole qualcosa, ci vuole qualche soluzione in più, ci vogliono degli accorgimenti diversi, ci vuole un modo probabilmente di gestire la squadra nel suo complesso differente dal punto di vista tattico e anche dal punto di vista del personale, della gestione del personale. Oppure un messaggio per la società, per dire io ho questo, più di questo non posso fare, altro. Sui messaggi trasversali Conte è abbastanza bravo, questo lo sappiamo. Nicola, ti aspetto allora venerdì, Dai, vi porto un sacco di robe buone da mangiare, che la mia zona è evocata e il mio passato di slow food allora ti aspettiamo per i prossimi 97 venerdì consecutivi. Grazie, ci vediamo venerdì. Grazie, adesso, ciao. Cara Sara, ti porto, sai dove? New York City. Simone Sandri, ciao. Buon pomeriggio Carlo. Ciao, come stai? Tutto bene? Molto bene, grazie. Stai seguendo playoff NBA a rotta di collo, naturalmente. Certo, ovviamente. Già qui c'è aria di sorpresissime, perché Memphis 2-1 su OKC di Kevin Durant. Forse la candidata numero uno per il titolo, almeno da quella parte dell'oceano. Tu perché tifi, Sara, NBA? Per gli italiani, ma non per gli italiani, sì. Vabbè, c'è Berinelli che è 1-1 con Dallas, anche questa è una sorpresa. San Antonio 1-1 con Dallas, e poi c'è Indiana che, ragazzi, tutti dicevano l'ostacolo più alto per LeBron James è Indiana in questi playoff per il tripeat. Indiana sotto 2-1 con Atlanta. Che succede, Simone? Succede che è assolutamente una prima settimana di playoff assolutamente all'insieme, come detto, delle sorprese. E pensiamo che l'unica squadra che sta praticamente aspettando pronostico è Miami, che comunque sta facendo molta fatica con Charlotte. Peraltro Charlotte è limitata dall'infortunio di Jefferson, che è il suo giocatore migliore, che si sta trascinando, ma è meno del 50%. Il resto è veramente un equilibrio pazzesco. Ad ovest forse potevamo aspettarcelo, perché comunque anche le squadre dietro, Memphis e che sta finito settima nella regular season, e Dallas sono delle signore squadre che anche nei match-up possono dare problemi sia a Oklahoma City che a San Antonio. Io sono abbastanza sorpreso da come invece da Memphis, dalla personalità che sta dimostrando, perché nelle due partite che ha vinto, tutte e due supplementari, ha sprecato in maniera incredibile il vantaggio nei minuti finali dei tempi regolamentari per poi vincere l'overtime, che è una cosa pazzesca, perché praticamente ti perdi completamente l'inerzia della partita contro una squadra, una partita nella quale sei anche sfavorito, e poi riesci a vincere la supplementare, sintomo di grande, sì, di grande fiducia, di grande carattere, di grande carattere. Poi il modo in cui Oklahoma ha ciuffato il supplementare con l'azione da 4 punti di Westbrook, veramente pazzesco. Normalmente quelle partite lì le perdi, hai ragione Simone Sandri, ma sì, tu hai gioco da 4 punti che si è ripetuto nella in gara 3, sì. Per cui due situazioni assurde, e vincere due partite così è veramente incredibile. Tu hai una spiegazione di questo approccio morbido delle grandi favorite ai playoff? Poi è chiaro, Miami avanti 2-0 contro Charlotte, e qui la serie insomma è scritta, era già segnata in partenza, pur facendo più fatica del previsto. Hai una ragione, una spiegazione a questo approccio morbido delle grandi favorite? Una spiegazione vera non c'è, secondo me. Si può analizzare il fatto che Indiana è una squadra che non riesce a ritrovare se stessa, ha un Hibbert che è veramente un fantasma, è una figura. Perché ha fatto un'evoluzione incredibile dallo Star Game, ed è praticamente inspiegabile, perché è un giocatore che soprattutto a est dovrebbe dominare, e ha dominato per buona parte della stagione e l'anno scorso. Adesso sta facendo una serie ma imbarazzante. Ieri ha fatto 4 punti e 2 rimbalzi per un giocatore che dovrebbe dominare con 2 su 9 al tiro. È assolutamente assurdo. Paradossalmente in questo momento Vogel, per cambiare passo, forse dovrebbe lasciarlo in panchina e cercare di andare con un quintetto basso con Scola, perché quello che l'apporto che sta dando Ivert è assolutamente minimo, ed è un fargli un complimento, direi. Poi c'è anche, invece, secondo me la grande sorpresa è Washington, che ha vinto due gare in trasferta contro Chicago, e quello è secondo me è veramente una sorpresa, perché Chicago sta giocando molto bene, è una squadra con grande personalità e con carattere, e che secondo me, infatti, questa è la vera grandissima sorpresa, secondo me, questa Washington, che sta facendo, ha iniziato in maniera spaziale i playoff. Sì, c'è anche Portland 0-2 su Houston, anche però questa... sai, Houston e Portland, e la differenza era una partita nella loro regular season, per cui ci può stare. E Aldridge è un giocatore molto sottovalutato. Aldridge probabilmente è il terzo miglior giocatore della Lega in questo momento, per cui molti non lo conoscono, perché gioca a Portland, lontano un po' dalle grandi città mediatiche, spesso i Blazers non sono neanche in televisione nazionale, per cui è un giocatore che da un certo punto di vista magari non è neanche tanto conosciuto, ma ha fatto due partite con più di 40 punti nei playoff, cosa che fa Michael Jordan e LeBron James. Sì, certamente. Senti, ma anche San Antonio Dallas sull'1-1 con Dallas che vince una volta in casa degli Speroni, questo derby texano, è una sorpresa da non sottovalutare, anche se ho l'impressione che questa serie finirà per andare nella direzione di Greg Popovich e dei neri argento. Sono d'accordissimo. Diciamo che non, ecco, da quel punto di vista io non mi è piaciuto tanto l'approccio degli Spurs, anche in gara 1 hanno avuto bisogno di un cambio di passo negli ultimi minuti di gara 1 per portare a casa gara 1. Poi in gara 2 è stato un brutto approccio, però insomma anch'io sono d'accordo che alla fine i valori vengono fuori in questa serie, perché è sicuramente superiore San Antonio, ha una panchina che è superiore, che non sta producendo, e secondo me comunque con l'andare della serie andrà. È stato un campanello d'allarme, questo è importante per San Antonio, perché non può pensare che comunque si è, diciamo, risparmiata nella regular season, riuscendo a conquistare il miglior record della stagione, che è un'impresa incredibile quello che ha fatto San Antonio quest'anno, risparmiandosi, non facendo giocare neanche un giocatore più di 30 minuti a partita, che è una cosa che non è mai successa nella storia dell'NBA. Però adesso bisogna cambiare passo, non è nessuno ti regala niente, ovviamente, metto io. Un'ultima cosa, Simone, un pronosticaccio: Indiana o Oklahoma, quale delle due vedi fuori dai playoff al primo giro? Indiana, e se non va fuori al primo giro va fuori al secondo. Oklahoma se la gioca, perché Oklahoma ha dei giocatori di talento spaziale e possono vincere qualsiasi partita. Indiana va fuori, se non va fuori contro Atlanta, e secondo me va fuori contro Atlanta, va fuori. Cioè, va fuori, non vedi possibilità di ripigliarsi per Atlanta, che è stata la grande protagonista della regular season? No, perché è proprio come se fosse rotto il giocato in questa situazione, sì. Qua non ci sono delle lacune. Loro, una squadra che difendeva bene, difendono male. In attacco avevano problemi, adesso hanno un milione di problemi, per cui è una squadra, non riesco a vedere dove possono fare degli adjustment tali da cambiare passo e arrivare magari in finale di conference. Quindi Miami in scioltezza verso la finale NBA. Beh, il senso è questo. Miami e Brooklyn al secondo turno, perché guarda che Miami non è che sta giocando così bene, Per cui Miami e Brooklyn al secondo turno secondo me va a 6 o 7 gare, poi tutto può succedere, per cui anche se è nettamente favorito, su questo non credo ci siano dubbi. Grazie Simone. Grazie a te, a presto. Carlo. Grazie Simone Sandri da New York. Cara Sara, tutti i Berinelli magari si porta a casa anche il titolo NBA dopo la vittoria nella gara da tre punti allo Star Game. Tutti convocati. Sabela, podés ser tan notario, te olvidaste de Carlito. Sinceramente non so come gli sia venuto in mente fare una pista qui. E quello è il più grande dubbio, ecco, che penso tutti abbiano avuto da quando ieri o l'altro ieri siamo arrivati, ecco. Una cosa molto bella è che ci sono lo stesso numero più o meno di curva destra e sinistra, e quindi lo stesso stress per le gomme di qua e di là, e poi soprattutto c'è una curva destra sinistra, quindi la moto rimane sempre calda da tutte e due le parti. Questo è molto buono anche per la sicurezza. Ovviamente Sara, qui Carlitos e Saveia non c'entrano niente, ma c'è il Gran Premio in Argentina. Come sei messa sul moto mondiale? Ti piace? Sì, mi piace. Tifo Lorenzo. Ah, tifi Jorge. Sì. Tifi Jorge Lorenzo, che si è un po' perso. Si è un po' perso quest'anno. Oggi ti parlo di queste turbe mentali di Lorenzo, che non riesce più ad essere lì. D'altra parte, la prima volta è volato, si è sdraiato. Partito male, la seconda ha fatto una partenza praticamente comica, no? E è un po' fuori giri in questo momento Lorenzo, anche se l'anno scorso secondo me ha fatto la sua migliore stagione ogni epoca, cioè sua personale migliore stagione ogni epoca, poi arrivando secondo dietro a Marquez, però è stato straordinario Lorenzo. Andiamo a Mugello, 2 giugno Mugello per vedere questi. No, sarà molto interessante la gara di domenica, sarà estremamente interessante proprio perché c'è da capire. Allora, Marquez è imbattibile, non ci sono avversari, andiamo avanti così, questo monologo quasi stucchevole fino alla fine, come è stata l'ultima gara, orrenda, onestamente, l'ultimo Gran Premio è stato brutto. Oppure c'è qualche chance per gli altri. Anche Marquez ha detto. Sì. Ha detto brava, anche lui che si è annoiato. Detto, oh, ragazzi, venite a prendere, perché sennò io qui ho dei problemi di concentrazione. Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo tornare un po' alla Juve di ieri. Sì. Io non sono un gufo, forse perché avendo te verso Vidal al fantacalcio certo. Simpatizzare, e anche se qua non conta, sono sempre i miei ragazzi, anche te verso ieri sono tutta contenta. Cioè lei non è juventina, però giustamente interessi privati a Tevez e Vidal al fantacalcio. Peraltro complimenti per la mossa, perché secondo me per vincere al fantacalcio un giocatore come Vidal soprattutto è la chiave. Brava, centrocampista che fa tanti gol, è quello che ti fa vincere il fantascudetto. No, Paola? Ma sono arrivata terza, matematica, che comunque è l'ultimo posto, diciamo, pagato nella nostra lega, e quindi è un buon risultato. Come no? Quanto? Quanto abbiamo beccato? Quanto abbiamo beccato? Credo 40. Boh, mica male, dai. Vabbè, ma sono 10 netti, però. Sì, vabbè, ma va bene. L'anno prossimo facciamo la squadra insieme, con la maglietta di tutti i convocati. Perché no? Volentieri. Il campionato di tutti. Ma quindi sulla Juventus? Sulla Juventus io non ho capito perché non ha messo Llorente, obiettivamente. Non ha capito nessuno. Perché va bene tutto, cioè a parte come si dice Vucinic, che io più che altro al massimo avrei messo Giovinco, però almeno al secondo tempo stai perdendo, Provi di tutto, anche perché poi non ho capito la dichiarazione a fine gara, se sembra che 2-1 perso, abbiamo messo cosa che ha detto, abbiamo messo le fondamenta per il passaggio del turno. Mi ha fatto veramente ridere. Sì, abbastanza, cioè, abbastanza. Nel senso, è vero che un 2-1 a sfavore è meglio di un 1-0, c'è il gol fuori casa, va bene tutto, però quando ho sentito quella frase ho detto caspita, cioè vista così, se uno non sta al risultato pensa minimo a un 1-1, massimo che ha vinto. Sì, cioè. Sì, sì, è vero. No, ma è vero, è quello che ha detto anche Sara Juventina, ma che sta di Conte? No, ma sono due rilievi assolutamente pertinenti, bravissima Paola, perché perché non ha giocato Llorente, che comunque sarà anche stanco, lo vediamo, l'abbiamo visto uscire l'altro giorno dal campo stremato, avrà anche poche energie, però è stato il centravanti di riferimento della Juventus per tutta la stagione. Vai a giocarti quella che dovrebbe essere in questo momento la partita della vita, scudetto già in tasca, eccetera eccetera, Llorente non gioca e nemmeno entra, nemmeno subentra, fa giocare Osvaldo che finora non ti ha dato nulla. Vucinic poteva essere rischioso, è stato un rischio che non ha pagato, e alla fine continuo a pensare che la Juventus è stata deludente ieri sera e Conte può dire quello che vuole. Punto primo. Punto secondo, la qualificazione è ancora tutta da prendere, mia cara Sara, perché anche per il discorso che ti facevo prima, cioè la Juventus in casa, in Europa, prende sempre gol. Due dal Gala e dal Real, due dal Galatasaray e dal Real Madrid, uno dal Copenaghen, uno dalla Fiorentina, uno dal Lione, imbattuta solo con il Trabzonspor. Quindi, insomma, non sono toni eccessivamente ottimistici, stranamente, quelli usati da Conte dopo la sconfitta di ieri sera, e anche ieri sera dalla difesa senza Barzagli qualche segnale preoccupante è arrivato. Maurizio Formia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Beh, io sto godendo come un matto. Come un riccio, sì. Per la sconfitta della Juventus ieri sera e oggi per il mare di Sperlonga, bellissimo. La sconfitta della Juventus è la cosa più bella che possa aver vissuto in questi giorni. Sì. E quando vedo piangere Conte, io godo. Godo, sì. Tantissimo. Sì. Ma sapete qualcosa del Milan? Che cosa hanno intenzione di fare, se è pervenuto qualcosa, non si capisce nulla, cambiano l'allenatore, cambiano il direttore sportivo, io penso che il Milan lo cederanno a parametro zero. Pensa Sara che anche Maurizio porterà in una squadra di tutti convocati assolutamente trasversale la tua stessa maglietta, quella di tutti convocati. Fantastico. Ma me la presti dopo un po', no? Cioè me la fai provare, che non facciamo la foto assieme. Facciamo foto assieme, ma poi però io tu te la porti a casa, io la devo restituire, perché no, per te la maglietta non c'è. Niente Sara, grazie davvero, complimenti. Grazie a voi, complimenti. Mi spiace per la voce un po' così. No, ma tutti dicono sexy da morire la voce di Sara, quindi un trionfo. Noi dunque oggi è 25 aprile, venerdì, no? Cioè domenica ascolta Giovanni Capuano 17-19, dato partecipo anch'io, no? Ospite sgraditissimo, ma ci sarò come ogni domenica, e poi lunedì tutti convocati ore 14, dalle 14 alle 16, bella sta storia delle due ore, eh? Siamo un po' più larghi, e poi abbiamo quella canzone meravigliosa. Anzi, facciamo così, chiudiamo con il nostro pezzo cult ormai. Ciao, Franco Piantamini, autore di questo programma, Roberto Scaltretti in regia, Sara Magnani, che è stata bravissima opinionista oggi con noi. Buon 25 aprile a tutti, o meglio, quel che ne resta, insomma, il 25 aprile. Ciao. Ciao. Due ore da onesti e due per il malaffare, due ore da galli e mille da zanzare, due ore per l'inferno, due per cantare messa, per ritentare il gioco per tutta la scommessa. Saluto il ringrazio Bruno Arrigoni, top manager dei nostri canestri, Sofocles Scorzanidis, baby shack, come dice qualcuno, e appassionato di pizze. Quel giorno lì, davvero, lui se ne mangiò 8, se ne portò a casa 4. Casomai mi venisse un languorino durante la notte, invece la notte delle patatine, gli era venuto il languorino che era alle 2, alle 3. Solo che dopo il sonno aveva prevalso sul languorino, solo che le patate erano rimaste a friggere e di lì venne fuori il disastro. Intanto che c'erano i vigili del fuoco a segnare l'incendio, tiravano giù dal balcone con un paraggio, perché per le scale non ci passava sulla barella. Emiliano Mondonico, buongiorno, ciao. Buon pomeriggio a tutti. Grande Emiliano, sai che si accusa a Mourinho di aver fatto catenaccio? Ha portato a casa il risultato, poi dopo che ci faccia catenaccio, che si giochi tutto l'attacco, che si faccia metà e metà, dopo ognuno la pensa come meglio crede. Chiaro che sarebbe stato meglio l'1-1 come risultato, però io penso che abbia giocato come doveva giocare, come ha giocato il Real Madrid ieri sera. Questa è la musica che i tifosi del Milan sentiranno l'anno prossimo, prima delle partite, all'ingresso in campo dei giocatori. Oppure no, Marco Grinazzi? Difficilmente, insomma, San Siro. Sarà San Siro. Al momento non esiste nulla di concreto. A me era giunta voce, insomma, dell'interessamento sia di Zoo che di Lin da un po' di tempo. Io ho provato a fare le verifiche, per quanto sia complicato farlo in Cina, insomma, non avevo trovato nulla di concreto. Su Lin ho qualche incertezza, diciamo, una forte perplessità per il fatto che qualche settimana fa, pur essendosi presentato come il salvatore del Valencia, quando diciamo si è trattato di andare in tribunale, di staccare l'assegno e di comprare il club spagnolo, insomma, non si sia presentato, e questo mi lascia un po' dubbare. Concludo ricordandovi che la nostra trasmissione va in onda alla stessa ora ogni settimana, lo stesso giorno, la stessa ora, la stessa rete. Bello, eh?